on black. Finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo qui in diretta da Francavilla Marittima su Radio Transizione di Fase. State ascoltando la diretta dello Scataparty volume 3. Probabilmente non so se riuscite a sentire bene la mia voce, ma io credo di sì. Insomma, abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico che come al solito ci contraddistingue, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Quindi in questo momento state ascoltando la musica che stanno mandando Italo e Angela. Noi siamo appena arrivati, in realtà lo confessiamo, e va bene, insomma, abbiamo solo bevuto un po' di vino, insomma, giusto un po', ma abbiamo risolto soprattutto questi gravissimi problemi tecnici. Ora vi lasciamo ancora con la musica di Angela e Italo e a breve avremo altre incursioni, come dire, orali, boh, non sappiamo. Comunque rimanete all'ascolto di Radio Transizione di Fase, la web radio libera e indipendente. And that's why I said Married man, and am I wrong